collina, la veste unta di grasso e una foschia marina, il verde e i girasoli schiacciati sul sentiero, il mulo va a memoria puntando un cerchio nero, l'acqua del mulino si scambian due parole, il pane va alle stelle, com'è che oggi non piove, il secchio è traboccato e l'occhio tremolante si scuote dalle cinghie voltandosi un istante. Per quanto Baltasar dovrei ancora aspettare che il basco appeso al muro ritrovi il suo padrone, per quante lune e soli dovrà il grano tagliare, sapendo che Felipe non ti potrà aiutare, per quanto Baltasar dovrei ancora sopportare l'odore delle guardie che vogliono controllare, per quante volte il morso dovrai far sanguinare, sperando che alla stalla ci sia un viso familiare. Si spaccano le onde come un suono di mitraglia, e quanta luce i fiori nelle calle di Pamplona, l'odore scala i monti e sboccia sull'aurora, e come picchia il vento laggiù a San Sebastiano, i passi sono leggeri come il volo di un gabbiano. Quel giorno Baltasar terremo una gran fiesta, coi fichi del montone berrem vino di Sierra, col rosso e le due croci della nostra bandiera, faremo tanti scialli da dipinger la frontiera. Quel giorno Baltasar accenderemo un fuoco, cantando nella notte danzeremo fin sul molo, e il fango sarà sabbia e il ferro argento ed oro, perché dei nostri campi niente daremo a loro. Di Viscaglia si spaccano le onde come un suono di mitraglia, e come picchia il vento laggiù a San Sebastiano, i passi sono pietre nascoste nella mano. Quel giorno Baltasar verranno tutti insieme, Madrid cadrà malata sotto il caldo delle schiene, e il basco di Felipe sarà il nostro cappello, lo leveremo in aria e danzeremo con quello, lo leveremo in aria e canteremo con quello. Alla...